известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Confident, Mr. President, that you, following the brilliant example of Alexander the Great, you will be able to... Questa è la migliore della giornata, è la migliore della giornata, adesso vi spiego. Sta parlando l'arcivescovo Demetrio. Cut the Gordian knot of these unresolved issues. Sta parlando l'arcivescovo Demetrio, arcivescovo della Chiesa greco-ortodossa d'America, e sta lodando, come più non si potrebbe lodare, poi non credo manco glielo avesse richiesto, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha prontamente paragonato a Alessandro il Grande. Se avete tempo andatevi a cercare il pezzetto su internet, perché la faccia che fa Obama quando l'arcivescovo Demetrio con la sua grande barba gli dice che lui è uguale a Alessandro il Grande, insomma che è in quel solco e che si prepara a tagliare il nodo gordiano della crisi, Obama, come dire, non crede ai suoi occhi, dice: ah, capperi, per dindrindina, caspiterina. Tant'è vero che poi, insomma, a tanta lode, a tanta magniloquenza, si sente in dovere di rispondere così. Thank you. Well, what a great honor. I will tell Michelle that I've been compared to Alexander the Great. Dice, beh, voglio proprio andare a casa e dire a Michelle, a mia moglie Michelle, che oggi, durante la giornata di lavoro, sono stato paragonato a Alessandro il Grande. Voglio vedere se comincia a rispettarmi un po' di più, perché a casa, di riff o di raff, presidente o no, continua a comandare lei. Abbiamo voluto cominciare un po' su toni leggeri, perché in realtà poi i toni della stampa americana oggi non sono leggeri, anzi sono preoccupati, e ne parleremo poi diffusamente sia nello spazio che chiamiamo Express Yourself, poi dopo le 4:30 con un ospite discuteremo soprattutto di una temperie psicologica, di psicologia di massa, ammesso che ci crediate, la psicologia di massa, ma insomma un discorso che ha fatto capolino prima sulla stampa americana, su Newsweek, oggi è saltato fuori sul Corriere della Sera, sul Foglio, su diverse testate, lo abbiamo riproposto e ha avuto anche delle reazioni quantitative, anche qualitative, di interesse da parte vostra sorprendenti, è segno che la questione è nell'aria, sono tempi di crisi, e quindi c'è la forte possibilità che siano tempi di populismo, no? E di questo proprio parleremo tra un pochino. Prima volevo darvi altri segnali da tempi, altre notizie da tempi di crisi, neanche ci servisse, no? Resuscitare Steinbeck, furore. Per esempio, in California sta ripartendo la corsa all'oro. Ora la corsa all'oro non è più quella dei pionieri, ma è quella che fanno, come dice il nostro primo ministro, no? Quelli che non sanno proprio veramente più che fare, non sai veramente più che fare, ti prendi un passino di quelli per scolare la pasta e vai sui fiumi della California a cercare l'oro. Tant'è vero che i giornalisti di Los Angeles, che sono andati a vedere che stava succedendo su segnalazioni di, come dire, un infoltimento dei cercatori d'oro, ne hanno trovati di tutti i generi, alcuni dei quali addirittura dei tecnici di Hollywood, pensate un po', hanno fatto una intervista molto divertente a un elettricista delle luci di che lavora negli studios di Hollywood, che in questo momento, dopo lo sciopero, dopo i rovesci, dopo la restrizione delle produzioni, ha deciso di darsi alla ricerca dell'oro. Dice che in un giorno puoi fare 10.000, 20.000, uno ha fatto anche 35.000 dollari, dice, in un altro giorno, che questi invece sono tanti, puoi fare 2-3 centesimi, ovvero niente. Pare che la zona per gli interessati sia a est di Modesto, la città della California, in una area chiamata Motherlode, la contea di Motherlode vicino Modesto, lì si trova oro, se n'è sempre trovata, perché gli esperti fanno sapere che l'oro che ai tempi della corsa all'oro venne trovato dai pionieri era solo il 15% di quanto ne sarebbe disponibile. Tempi di crisi in California. Schwarzenegger, pensate un po', vicino Sacramento ha aperto un terreno di solito utilizzato per grandi fiere, non so, dell'agricoltura o quant'altro, per gli homeless che stavano ormai creando dei campeggi spontanei sparsi nell'area suburbana di Sacramento. Sono stati irrigimentati, disciplinati, ma anche serviti, almeno col minimo indispensabile, all'interno di questo terreno. Homeless, attenzione, non vuol dire necessariamente, no, la nostra idea del barbone che si trascina dietro il sacco con i suoi pochi averi. Può voler dire anche, ad esempio, famiglie che hanno perduto la casa magari per la crisi dei mutui e non riescono economicamente a far quadrare i conti in modo tale da potersi permettere anche un solo affitto. La situazione è grave, il dato di disoccupazione nello stato della California è al 10,5% e vi garantisco che per quelle parti è un dato impressionante. Con un paio di notizie rapidamente, ma poi abbiamo un servizio molto interessante. Dunque, un fratellastro, ma quanti fratellastri ha Obama? Qui la conta, urge conta fratellastri Obama. Comunque un fratellastro di Obama è vittima di questa epidemia di colera in Kenya, avrebbe 51 anni, si chiama Malik Obama, naturalmente, ed è uno dei colpiti in questa zona di Kisumu, dove questa epidemia ha colpito diverse persone. Su Obama è tornato a parlare Silvio Berlusconi, che insiste sull'argomento. Io ve lo riporto, ma insomma la questione è sempre quella della tinta, non so come dire. Questa volta ha detto a chi gli faceva presente che quando parla sembra Obama. Io vorrei sapere, anche le agenzie, a chi gli faceva presente che quando parla sembra Obama. Io vorrei sapere chi faceva presente a Berlusconi che quando parla sembra Obama. Alzi la mano. Il premier comunque avrebbe risposto dicendo: no, io sono più pallido anche perché è tanto che non vado al sole. E poi ha ripreso: lui è giovane, alto, bello. E poi Obama comincia a viaggiare, il diario di viaggio è intenso, si sa già, oltre al fatidico 2 aprile, il giorno secondo il quale, dice la prima pagina del New York Times, potrebbe cambiare il ruolo dell'America. Questo G20 è veramente circondato da premesse apocalittiche. Comunque Barack Obama sarà in Francia il 6 giugno, giorno d'anniversario dello sbarco degli alleati in Normandia, il D-Day, per celebrare questo anniversario. Sarà anche a Baghdad entro il prossimo mese di aprile, quindi è probabile che la sua visita sarà connessa al lungo tour, ormai piuttosto organico, che si sta organizzando per Obama proprio intorno, in coincidenza alla visita a Londra per il G20. Ma ora abbiamo invece un documento particolare, ascoltatelo, poi ne parliamo. Non è un rumore piacevole quello che ascoltiamo, sono colpi di manganello contro degli uomini a terra. È l'estratto di un video di 7 minuti che abbiamo visionato anche con un certo sgomento, girato dal Dipartimento di Informazioni e Relazioni Internazionali della amministrazione tibetana in India, e mostra in modo fin troppo esplicito le violenze messe in atto dalla polizia cinese in Tibet durante la rivolta di un anno fa. Scrivono sia il Wall Street Journal che il New York Times che sarebbe proprio questo video il motivo all'origine dell'oscuramento di YouTube da parte del governo cinese, oscuramento che abbiamo verificato in diretta per ben 2 giorni di fila insieme al nostro Saro Capozzoli. Ne abbiamo parlato con Gianluigi Negro, che è un neolaureato in cinese a Ca' Foscari e un appassionato di internet e di internet in cinese in particolare, della situazione di internet in Cina. È in contatto anche con numerosi blogger orientali, lo abbiamo già avuto ospite, oggi ci è passato a trovare e ci ha raccontato il suo punto di vista su questo oscuramento di YouTube, un oscuramento che dovrebbe ancora essere in atto. Sentiamo dunque i pareri di Gianluigi Negro. Succede spesso, insomma, che soprattutto dei siti stranieri vengano censurati anche per dei periodi molto lunghi. Una situazione simile si è verificata con Wikipedia, che è stata oscurata per un lungo periodo, è stata volutamente oscurata per offrire la possibilità all'utenza cinese di ottenere un livello di confidenzialità maggiore con quella che la Wikipedia cinese, Baidu Baike, un vero e proprio clone anche dal punto di vista grafico, non solo dei contenuti. E io penso che l'oscuramento di YouTube debba essere associato a questo tipo di fenomeno, dal momento che ci sono molti siti di video sharing in Cina che potrebbero avere la stessa sorte di Baidu Baike. Quindi, giusto per ricapitolare e fare chiarezza, secondo quanto anche riferito dal Wall Street Journal, il motivo ufficiale, non ammesso peraltro dal governo cinese, di chiusura in questi giorni di YouTube è legato ad un video che mostra le violenze dei cinesi in Tibet. Tu a questo aggiungi anche un elemento economico, commerciale, perché una chiusura di YouTube, come avvenne qualche mese fa, qualche tempo fa per Wikipedia, inevitabilmente favorisce l'affluenza, l'afflusso, quindi i contatti verso altri siti, altri motori di ricerca o enciclopedie multimediali di matrice cinese, quindi quasi una sorta di protezionismo economico in campo di internet. Sì, e questa è una mia chiave di lettura, è una mia personale chiave di lettura che però ha trovato riscontro con i miei conoscenti, i miei contatti cinesi. Il governo cinese però, chiamato in causa, ufficialmente ha detto che non c'entra nulla con la chiusura di YouTube. Sì, è proprio la dichiarazione di ieri, il ministro degli esteri cinesi si è detto assolutamente estraneo alla vicenda, anche perché il partito non ha nessun tipo di paura nei confronti della rete. Francamente sembra una risposta abbastanza inverosimile. Secondo me c'è una vena di sfida, ecco, una vena provocatoria in questa affermazione. Rivolta a chi? Rivolta all'Occidente. All'Occidente. E qualcuno potrebbe prendere questo guanto di sfida o alla fine pensi che tutto poi si risolverà quasi in una sorta di indifferenza? Cioè tra poco YouTube tornerà ad essere accessibile e ci si dimenticherà di questo incidente? È possibile. Però anche alcune chiavi di lettura accademiche che provengono dall'università, prestigiosa università di Hong Kong, ritengono che questo atteggiamento della Cina nei confronti della rete sia molto appetibile da parte dei, purtroppo, governi nostrani. Ma ci sono anche i nostri vicini, la Germania e la Francia, che iniziano a avvertire l'esigenza di avere un controllo più strutturato della rete. Heavy downbeat of one and the show began. London calling, strike up the contraband. Stroke of the gene, just stroke of lucky, got it right. Took the hit and we were gone. Take me such a thing can prepare the life, like a pipe dream smack square between the eyes. Death of a salesman, stroke of lucky, got it right. After all, it's just a sign. E dunque, sulle note dei Pernice Brothers, vi diamo qualche informazione in più riguardo a questo video. Se lo cercate su YouTube dovete cliccare China Brutality in Tibet Exposed. China Brutality in Tibet Exposed. Tra l'altro bisogna anche attivare dei permessi perché il video è ritenuto impressionante. Però nel frattempo va detto anche che arriva una smentita. Secondo Pechino si tratta di un falso, di una menzogna. Il portavoce del Dalai Lama dice: il filmato mostra chiaramente i pestaggi tibetani arrestati, ma un funzionario del governo cinese, che ha parlato all'Agenzia Nuova Cina, spiega che esperti di tecnologia hanno trovato che immagini e sonoro sono stati montati per far apparire insieme posti, tempi, persone differenti, insomma che si tratta di un falso ad arte, tra l'altro, e quindi gravemente insomma lesivo e confezionato per provocare ulteriore sommovimento psicologico. Comunque potete vedere con i vostri occhi, verificare e giudicare. Noi dobbiamo passare a un altro argomento. Dunque, noi l'abbiamo l'abbiamo chiamata la rabbia orizzontale, perché ci viene in mente, no, un po' questa idea di andare a un certo punto dritti per dritti, no? Di non guardare più in faccia nessuno, travolgere tutto quello che ti trovi davanti perché sei veramente, seriamente arrabbiato. Capita, no? Emiliano, capita, sta capitando capita. Molto spesso a persone che hanno subito quelle che giudicano, reputano delle ingiustizie, delle violenze, dei trattamenti magari che ne hanno messo seriamente in pericolo, in forse o in discussione, o che hanno distrutto ad esempio le loro finanze, i loro risparmi, il loro conto in banca. Le notizie sono di tutti i giorni, in Francia, in Inghilterra, in America: banchieri malmenati, trader sequestrati, sfrattati che provano a opporre resistenza, e naturalmente i media che ci montano sopra, e anche la politica che sta valutando tutto ciò in un certo modo. Più tardi ne discuteremo con un ospite abituale, Andrea Mancia, ma attorno a questo ritorno di fiamma populista, così l'abbiamo chiamato, vi abbiamo chiesto un punto di vista, ovvero se no questa rabbia che va contro Wall Street, contro la sua avidità, poi potrebbe andare anche oltre, travolgere chissà che cose. Allora c'è Sandro che fa un commento altissimo, storico, politico, filosofico, mette veramente dentro molte cose: non è più tempo di rivoluzione socialista impossibile, si può solo esprimere un ribellismo affiammata, ma ormai la disciplina e fedeltà al sistema americano è radicata e anche Obama si adopera per riabilitare valori rigoristici e legalistici. Poi c'è Gabriele invece che dice: siamo già nell'epoca della rabbia populista, da noi è strisciante, oppure si sfoga contro il debole di turno, altrove si sfoga contro i manager che sbagliano strategie e poi magari licenziano. Francamente preferisco la seconda, forse perché penso un po' romanticamente alla scena finale di Riff Raff, bel film di Ken Loach di tanti anni fa, siamo ancora nel pieno degli anni Ottanta. Io però la scena finale non me la ricordo sinceramente. Botte. Indagherò. Vai. C'è un pessimista Giovanni per chiudere questo primo giro: il malessere globale, perché di questo si tratta, porta solo da una parte e ci si arriverà in men che non si dica, porta all'intolleranza e all'aggressività globale e alla spasmodica ricerca di soluzioni rapide senza calcoli di rischio. Veramente un quadro fosco quello tracciato dal nostro ascoltatore. Vediamo ancora qualche intervento, poi dopo la ripresa delle notizie di borsa continueremo, perché sono veramente tanti che ci hanno scritto. Gabriele, un altro Gabriele, dice: una nuova rivoluzione sociale, una di quelle rivoluzioni che segnano i momenti salienti della nostra storia come il 68, chissà, forse la nostra società aveva bisogno proprio di questo, una specie di rassegnazione nei confronti di questa fiammata populista. Flavio dice: la vedo come una conseguenza dell'incapacità della politica a gestire la società, lasciando tutto in mano al mercato, questi se ne è approfittato e ora qualcuno si arrabbia. Davide dice: è l'emblema dei nostri tempi, dai semidei in terra, no, megasedi, attici, jet privati, a cacciati come streghe. E infine vi leggo il messaggio di Luca che scrive: a parte che un paio di cartoni, di cazzottoni a qualche banchiere penso facciano solo bene, di sicuro la situazione sociale tende al peggioramento e quindi la fiamma populista riprende fiato. Sono in tanti a essere convinti che ci sia una specie di necessità quasi catartica, quasi una, sì, accettano quasi con fatalismo quello che sta avvenendo. Ne parliamo, torniamo a parlare anche con i vostri Express Yourself tra poco. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Say recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. My pony plays the mama. We built this city on rock. Allora, riprendiamo la trasmissione con l'argomento che abbiamo trattato nella prima parte del programma. Abbiamo parlato di populismo, abbiamo parlato di una serie di articoli che stanno uscendo sulla stampa internazionale, anche vengono ormai ripresi da quella italiana. Il primo che abbiamo letto è su Newsweek, a firma di Joel Kotkin, si chiama Anger Could Make Us Stronger, e in un certo senso si rifà all'ondata populista dell'Ottocento, al primi Novecento, del proto-industriale, con i lavoratori che cominciavano in un certo senso a far coinvolgere, no? A far convergere nella stessa protesta sia i bisogni giusti, i diritti, la difesa dei diritti della loro attività lavorativa, ma al tempo stesso anche uno scontento più sottile, più strisciante, legato a una condizione sociale che non riusciva a trovare sbocchi di soddisfazione nei tempi promessi, insomma, cominciavano a non collimare più gli indici della società americana tra ciò che veniva promesso e ciò che veniva mantenuto. Farid Zakaria oggi anche sul Corriere della Sera ne riparla, dice: non ho intenzione di difendere i bonus della AIG, il guaio dell'indignazione populista è però che si espande velocemente, debordando da un argomento all'altro che la giustifica ad altri di natura differente. Come vedete, dalla parte proletaria, no, della società americana si comincia a parlare di un populismo middle class. Il fenomeno è molto interessante, ne scrive anche Christian Rocca nel suo articolo sul Foglio di oggi. La rabbia populista, la rivolta della classe media americana si sta riversando sui bonus e sui ricchi. Obama teme che possa travolgere il suo progetto politico. È uno scenario di disordine, caos, disubbedienza, insoddisfazione soprattutto. Emiliano, leggiamo ancora qualche messaggio tra sì, direi arrivati. Che c'è per esempio Gustavo che fa una lettura secondo me impeccabile, dice: questi falsi imprenditori, dopo aver caricato il rischio di impresa sul pubblico mantenendo però il dividendo di utili nel privato dei soci, hanno anche avviato una sorta di lotta sociale pilotata. Quindi scenario inquietante per certi versi quello di Gustavo. Poi c'è per esempio Ettore Senza Speranza che dice: prevedo che atti di quel genere, di questo genere, potranno indubbiamente moltiplicare. Così è la vita. E ancora Andrea: la rabbia di perdere le certezze acquisite, stile di vita, lavoro, pensioni, deve sfogarsi bene contro qualcuno. Se guidato può aumentare l'etica e le regole, altrimenti diventa rivolta. Massimo scrive: negli Stati Uniti i diritti sono sostenuti più che da noi, e piuttosto che darsi fuoco, magari danno fuoco al banchiere di turno. Beh, piuttosto cinico. Maurizio: speriamo di non tornare alla rivoluzione francese, pochi avevano il potere della borsa e molti il solo potere di piangere. E per concludere Giulio: non credo che la rabbia populista produrrà qualche effetto, appena avranno soldi e lavoro tutto tornerà come prima. Intanto in Francia hanno rapito un manager, quindi però hanno già liberato, l'ha rilasciato, hanno già, però insomma i segnali sono inquietanti anche dalle nostre parti. Andrea Mancia, vice direttore di Liberal, abituale ospite di Jefferson, per tutto buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a tutti. Insomma, qual è la tua opinione, anche perché sta diventando una questione mediatica, o forse, e qui ti metto, come dire, la pulce in orecchio, sta diventando soprattutto una questione mediatica perché piace, muove, coinvolge e poi potrebbe diventare anche una piccola epidemia, come la vedi? Ma sono abbastanza d'accordo, e soprattutto, secondo me, una questione mediatica, soprattutto io credo. La vicenda dei bonus AIG era veramente una goccia nell'oceano degli aiuti statali dati al colosso delle assicurazioni americane. Cioè non mi sembrava quello il problema vero a carico del contribuente americano. È ovvio che sia, diciamo, sia a destra che a sinistra scorre sangue populista sempre in dimensioni maggiori negli Stati Uniti. Sì, anche perché in questo momento mi sembra ci sia, come dire, da parte dei media e anche forse un po' dei politici, una ben maggiore tolleranza del solito rispetto a questi fenomeni. Come dire, quelli se la sono cercata, la gente effettivamente è incavolata, se non disperata. La cosa oggettivamente che mi fa più impressione è questa, cioè anche quando questi episodi da forme di protesta più che legittime diventano, diciamo, azioni violente o ai confini della violenza, diciamo, tende a passare una linea giustificazionista. Il caso del manager francese è esemplificativo in questo, cioè né il sindacato francese né il governo francese né i media francesi si sono azzardati, diciamo, a criticare una linea di condotta diciamo quantomeno bizzarra, che è quella del sequestro di persona a fini di trattativa sindacale, che oggettivamente un paio di mesi fa soltanto sarebbe stata, diciamo, stigmatizzata con molta più forza, quantomeno da una parte dei media. Adesso non so se Sarkozy, che è un po' populista, lo è di natura. Guarda, ti leggo ancora un paio di messaggi che arrivano ai nostri ascoltatori per metterti a parte degli umori. Per esempio Alessandro scrive: nei momenti di crisi vera e dura come quella che stiamo vivendo, il vero pericolo per chi ci governa è il popolo che pensa, vedi? Quindi, come in un certo senso, non dico un assenso, ma una voglia di vedere dove stanno andando sia molto diffusa. Roberta scrive: in America qualcosa si sta muovendo, in Francia è stato sequestrato il manager, tagliatore di testa. In Spagna i disoccupati avranno libero accesso allo stadio nella prossima stagione. In Italia la gente si accontenta di guardare tette e culi in televisione e farsi ammorbare da inutili non notizie, perché poi c'è sempre questa sensazione che noi per adesso siamo un po' assenti dal tavolo, no? Come se forse zitti zitti che ce la caviamo. Che sensazione, diciamo, hai? Forse proprio per il modo con cui è fatta la nostra struttura bancaria è probabile che noi possiamo, diciamo, se la crisi arriva un po' in ritardo e se per caso rientra prima del previsto forse ce la possiamo cavare veramente. Quindi un minimo di attendismo c'è sicuramente da parte del governo, e io credo in Italia anche da parte dei media. Mi sembra di vedere questo atteggiamento più forte che in altre parti. Di sicuro c'è un'ondata populista. Io prima parlavo di destra e sinistra perché per esempio anche la destra in America ha, diciamo, le sue espressioni populistiche. Parlo dei Tea Party che sono stati organizzati in Florida nelle ultime settimane. Sono, diciamo, espressioni diverse ma che rispondono a un comune sentire della popolazione, probabilmente maggioritario in questo momento. Io credo di aver visto un sondaggio nell'ultimo paio di giorni dove, a domanda diretta, credo fosse Rasmussen Report, il più del 60% dei cittadini americani si dichiaravano populisti. Ora è ovvio che i populisti, diciamo, di destra in America sono diversi dai populisti di sinistra, cioè forse nei secondi prevale un po' più l'invidia sociale, diciamo la classica lotta di classe di inizio secolo. Nei secondi prevale di più la ribellione nei confronti dell'establishment di Washington, del governo che spende troppo a danno dei contribuenti. Però insomma il mood mi sembra molto simile, almeno nelle sue manifestazioni esteriori. Oh, tra l'altro Rocca nel suo pezzo sostiene che Obama guarda con grande preoccupazione a questa ondata, così non di disordine ma di malumori, perché dice potrebbe venirgli in faccia, potrebbe veramente diventare una mina contro quel invece richiamo alla persistenza, no, che fa il neopresidente. E al tempo stesso ho un articolo interessante sull'Economist, parla di un fenomeno che purtroppo, caro Andrea, non sono in grado di pronunciare perché sicuramente adesso mi impappino, ma insomma la palinization del partito repubblicano, che insomma, andando, diciamo, un po' nel filone che un po' populista era di Sarah Palin, vorrebbe, ecco, fare un partito un po' da talk show radiofonico, insomma, di gente dove di populismo a quel punto ce ne sarebbe avvangate. Che dici? Io dico che è potenzialmente pericolosa questa situazione, pericolosa per i repubblicani, perché appunto rischiano di trasformarsi da teoricamente partito di opposizione che dovrebbe proporre piani alternativi per uscire dalla crisi rispetto a quelli dell'amministrazione democratica in una sorta di talk show itinerante che si dedica più alla protesta che alla proposta politica in senso stretto. Ed è ancora ovviamente più pericoloso per Obama, perché Obama ci ha un po' marciato durante la campagna elettorale e anche nelle prime settimane della sua presidenza, quando si appellava alla ribellione contro l'avidità dei banchieri, contro i troppo ricchi che sfruttavano la situazione ai danni dei poveri, quando, diciamo, per giustificare la sua manovra fiscale, la parte fiscale della sua manovra finanziaria, diciamo, ha sfruttato anche il mood populista della nazione per far passare in congresso le sue proposte. E non dimentichiamoci che il congresso risponde malamente, ma in maniera molto molto feroce alla ventata populista che c'è nel paese, cioè delle volte rischia di essere più populista del popolo, addirittura, proprio per sfuggire alle accuse che vengono fatte. E tra l'altro sul budget credo che ancora non abbiamo visto i colpi migliori, devono essere ancora tirati. Qualche avvisaglia già si è iniziata a vedere ieri e l'altro ieri, certo, con certo. Dei tagli strani che poi alla fine non incidono sull'entità globale della manovra, e però riallocano, diciamo, le risorse proprio per venire incontro alle proprie constituency. Certo. E sappiamo quanto questo è importante nelle manovre finanziarie americane. La situazione comunque è abbastanza pericolosa, anche perché Obama si trova di fronte a una situazione in cui lui e il suo ministro del tesoro, i suoi consiglieri economici, Geithner, Summers, devono scegliere se essere populisti o amici di Wall Street. Trovare la via mediana è difficilissima, però quando loro fanno operazioni populiste le borse crollano, quando aiutano le banche nel senso che le banche preferiscono, i mercati salgono, devono scegliere, trovare la quarta. Ma poi non dimentichiamoci che anche l'intervento, insomma, per carità, sacrosanto e anche molto popolare, anzi tardivo, sgridato in quanto tardivo, di Obama, Geithner e compagni contro i bonus ai manager, poi insomma, ripeto, sacrosanto, ma la ventata era un po' quella alla fin fine. Il concetto è lo stesso. Io continuo a ritenere strano comunque che ci si concentri tanto, proprio mettendosi dalla parte del contribuente americano, se ci si concentri tanto su un millesimo che sono i bonus per i manager rispetto a tutto il resto, che è l'aiuto a fondo perduto dato a un'azienda. E anche questo, se vogliamo, chiamatelo se volete a modo suo populismo. Grazie ad Andrea Mancia per questo contributo su quello che abbiamo la forte sensazione sarà un tormentone di primavera. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube, from a gang called niggers with attitude. When I'm called off, I gotta sawed off, squeeze a trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me, police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out, for the punk motherfuckers it's showing out. Niggas start to mumble, they wanna rumble, mix them and cook them up in a pot like gumbo. Going off on a motherfucker like that with a gat that's pointed at your ass. So give it up smooth, ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder rap to keep you dancing, with a crime record like Charles Manson. My AK 47 is a tool, don't make me act the motherfucking fool. Maybe you can go toe-to-toe, maybe I'm knocking niggas out the box daily, weekly, yo, monthly and yearly. Until them dumb motherfuckers see clearly that I'm down with a capital CPT, you can't fuck with me. So when I'm in your neighborhood, you better duck, 'cause Ice Cube is crazy as fuck. As I leave, believe I'm stomping, but when I come back, boy, I'm coming straight out of Compton. Agitazione attorno a questo tema che abbiamo discusso a più riprese oggi nel corso del programma. C'è interesse, c'è partecipazione, c'è chi dice altro, rivoluzione francese, ve ne accorgerete che cosa succederà in questo Occidente impreparato. Insomma, siamo fatti anche oggi la nostra bella dose di ansia nella quale poi rituffarci ogni mattina quando scendiamo dal letto. Io credo sia il momento di raffreddare i motori, di calmarsi un attimo, e sì. Noi abbiamo l'antidoto a tutto ciò, un antidoto metodo che ormai ha un nome e anche qualcos'altro, ma quello tra poco. Arriva Paolo. Eh sì, il nostro Paolo, 36enne, veneziano, scappato dall'Italia per amore, ormai da più di un anno vive in Cina con la fidanzata a Shanghai, cambia lavoro spesso, non ha ancora trovato il lavoro ideale, ma insomma le cose stanno quadrando tutto sommato per Paolo, che ieri si è incontrato... Un quadrato strano, però insomma sta arrivando qualcosa, insomma, questa avventura cinese di Paolo, che ieri ha incontrato il nostro e il suo Saro Capozzo, certo. È un incontro imperdibile e noi non ce lo siamo persi. Un vertice sul quale abbiamo voluto essere messi al corrente e poi naturalmente a voi tutti girare le informazioni necessarie. L'incontro ha luogo nell'ufficio di Saro. Bellissimo, ha una sede straordinaria. Ah sì, Saro, è molto L'ha cambiato da poco ed è uno spettacolo. Immaginatevi una cornice degna dell'eleganza italiana. Arriva Paolo, Saro lo riceve, avrà anche una bella poltrona. Ha una bellissima sala di rappresentanza dove si è svolto l'incontro, mi ha detto Paolo. Hanno parlato di lavoro e altro, vedrete. Ascoltate. Tra le varie ipotesi, lui l'ha buttata lì, ha detto conosco un amico che non mi ha detto se italiano, non mi ricordo, comunque straniero, non cinese, che vive qui a Shanghai e che si è messo, ha avuto un'idea tempo fa di provare a fare massaggi per donne o chiunque, per massaggi, e ha detto che sto qua ha fatto tra virgolette carriera, perché è un po' sorpresa, ha avuto riscosso molto successo, probabilmente i cinesi che comunque hanno una forte tradizione in tema di massaggi, evidentemente uno straniero che fa pratica massaggi, lui ha detto che evidentemente un po' incuriosisce. Tu come hai reagito? Perché insomma tu potresti dopo le lezioni di tennis, dopo le lezioni di italiano, addirittura darti ai massaggi, quindi veramente l'arte creativa, inventiva nel mondo del lavoro tipica italiana. Sì, però dovrei fare almeno un po' di pratica, io di studio almeno della... Lui infatti ha detto potresti studiare un po' l'arte del massaggio senza diventare chissà che, ma ovviamente un po' di abilità ci vuole, studi un po' e poi potresti metterti. Vuole diventare massaggiatore, per signore cinesi che secondo quello che racconta Saro pagano benissimo. No, sono scandalizzato, ma sai, Saro ha detto metti a fare il massaggiatore, ma stiamo scherzando, ma apri un'impresa, una ditta di massaggi. Paolo Massaggi in Cina, tipico massaggio italiano, ma poi non mi sa fare come si dice a Roma volgarmente, c'è una parola precisa che si traduce, non diciamola, però insomma dai ragazzi, va bene, allora massaggi nel futuro di Paolo, vediamo se ci sta pensando, se ha qualche idea migliore, dai. È una sorta di accompagnatore turistico propormi ai gruppi di turisti italiani, quindi propormi alle agenzie di viaggio italiane che mandano qua turisti italiani, gruppi che ovviamente potrebbe essere utile avere qualcuno italiano in loco che comunque svolge una serie di servizi dal accoglierli all'aeroporto, ovviamente portarli in albergo, prenotazione albergo, servizi vari, insomma. Ho chiesto un parere a un amico, un signore che conosco in Italia che ha un'agenzia di viaggi a Padova. E lui mi ha detto l'idea è buona, bisogna un po' lavorarci sopra, ha detto, però questa, anche questa è un'idea che vediamo come va, insomma. Ho capito. Però sempre la via degli annunci, colloqui, di propormi, questa è la prima via, insomma, e vediamo se tarderà a venire ancora, vedrò di mettere in pratica questa idea, insomma. È che adesso con le lezioni, negli ultimi 2 settimane ho un po' ampliato ancora il giro e quindi ho aggiunto un paio di unità alle persone che avevo prima. Parli delle lezioni di italiano o di tennis? Entrambe, le tennis una ragazza tedesca e le lezioni di italiano la signora scozzese non si è fatta più viva, in compenso se ne sono aggiunto 2. Quindi sarebbero 3 nuove persone, per cui un francese che vuole quasi tutti i giorni un francese. Un ragazzo. Paolo, sbaglio o sono quasi tutte donne però quelle che partecipano alle tue lezioni di lingua e di tennis? 5 donne e 2 uomini. Quindi maestro di tennis italiano, di massaggi, massaggiatore a casaccio e accompagnatore. Io credo stia prendendo un globetrotter del lavoro, una brutta china, non so. Diteci anche voi cosa ne pensate. Vabbè, sospendiamo perché c'è una notizia importante. Qui il tempo stringe molto. Bisogna fare la ola. Che è successo alla fine dell'incontro fra Saro e Paolo? Dillo tu. Ebbene sì, è partita la foto. Presente, prima di tutto. C'era anche la fidanzata, naturalmente. E Saro è riuscito a convincere un restio, una persona più riservata del mondo, cioè Paolo, a farci una bella foto tutti e tre insieme. Ce l'ha spedita, quindi noi possiamo dare anche un volto a Paolo, non solo la voce inconfondibile che ormai ci accompagna da anni. E questa foto c'è. C'è anche la fidanzata, quindi noi possiamo fare tutti i commenti. C'è anche la non autorizzazione. Sono fatti nostri in fondo. Giustamente Paolo, insomma, si espone già molto, ma per ora l'immagine, come dire, è conservata qui nelle nostre cassaforti. Ufficialmente è la prima foto che io e lei come le star concediamo assieme, perché è la prima volta, prima d'ora, né la mia famiglia, né per la mia famiglia né per nessun altro abbiamo fatto una foto insieme io e lei. Quindi Saro è riuscito in questa impresa, ti ha convinto a fare una fotografia assieme? Sì, ma ci ha preso un po' così alla sprovvista, non sapevamo a cosa andavamo incontro, al pericolo in cui andavamo incontro, e quindi è così a freddo ci ha detto, mentre bevevamo caffè, ha detto: senti, un po', sì, lui ha detto che dietro anche su invito anche da parte vostra di provare a vedere se era possibile fare una foto, perché non fare una foto così assieme, e quindi noi lì ovviamente rifiutare, dire di no era troppo scortese, ovviamente abbiamo detto vabbè, ok, anche se appunto ripeto, io per primo non in vita mia non essendo fotogenico non mi piace farmi fotografare. Lei ovviamente è più fotogenica di me, però neanche lei ama granché farsi fotografare. E comunque in foto lei non viene benissimo. Dal vivo è più carina. Paolo, per quello che può valere il mio giudizio, insomma, siete usciti tutti benissimo e quindi è una bella foto. Beh, questo... ok... buon per voi, avete visto una discreta foto. Senti Paolo, più che altro adesso che abbiamo detto questa cosa in radio, cioè che c'è questa vostra foto, sicuramente come redazione di Jefferson 2 saremo travolti dalle richieste di ascoltatori che vogliono vedere le vostre foto, ma naturalmente noi non possiamo violare la vostra privacy, insomma, quindi non lo so, cercheremo di dissuadere chi vuole entrare in possesso della vostra foto. Che dobbiamo fare, Paolo? Cercate di spingere gli assalti. Ma non credo comunque che saranno lì tutti in fila a chiedervi la foto, insomma. Ah sì sì, Italia, io ti parlo Italia, noi siamo qui come bastione, vero Emiliano? A difendere la foto di Paolo. A difendere l'immagine di Paolo, ti prego non ci gettare in tentazione, perché noi difenderemo con tutte le nostre forze l'immagine di Paolo. Che è il nostro eroe, un eroe ormai veterano, vero, di Jefferson, in servizio da un annetto e passa. Comunque chiudiamo perché è tardi. Jefferson 2, Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti e Fabio Cantadori, la mail è jefferson2radio24.it, redazione Jefferson 2, Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, sono le nostre pagine Facebook, iscrivetevi numerosi, il programma va in replica a mezzanotte, in podcast sul sito della radio, in diretta domani alle 4 qui su Radio 24. 本来我说是带着小酒宴